che qualcuno dà su te, tutto un tratto, da sul tetto si mise a urlare. Era poco più di un buio, ma se si stringeva colpiva molto duro. Fu così che per non fare troppo male, lasciò il posto per un posto più sicuro. Come mai? A vedere se quel tale arrivava fino in fondo.